ce l'hai un disco regolare. Passa, logica al suo lato debole, ma non ha mai lo stesso sapore. Ciò che è importante adesso però è regolare, non pensare. Yeah. Lunedì